intende quello di portare in scena questi meccanismi di questi professionisti per far sì che, riconoscendoli, possiate avere anche voi gli strumenti per non cadere nella rete, quindi per non farvi truffare, ma anzi capire quali sono i meccanismi, conoscerli, quindi evitare di cadere nella loro rete e farvi a vostra volta promotori della comunicazione con le altre persone che conoscete. Quindi, finito questo spettacolo, voi vi chiederemo di informare anche quelli che non sono potuti venire oggi per far sì che anche loro sappiano come difendersi dalle truffe. Questo spettacolo nasce da un laboratorio teatrale fatto con i ragazzi che poi vedrete in scena, che appartengono a un'altra PS come la vostra, la PS nella PS Salvo d'Acquisto, che c'è alla Scala. Loro fanno teatro con noi, e per noi intendo io e la mia collega che facciamo parte di un'altra PS a nostra volta, che si chiama Calypso, che si occupa di teatro sociale, e con loro lavoriamo da diversi anni. Abbiamo fatto una serie di spettacoli e poi abbiamo deciso insieme che potesse essere arrivato il momento di portare anche un messaggio, quindi non soltanto divertirci con il teatro, che è una cosa che ci piace molto, ma anche usare questo mezzo del teatro per andare a fare una comunicazione che avesse anche una valenza sociale. Quindi da qui è nata questo progetto, in collaborazione anche con la Questura, per cui sono stati loro a raccontarci tutti i casi di truffe, delle denunce che hanno ricevuto, i meccanismi anche psicologici nei quali purtroppo le persone anziane cadono, e quindi abbiamo insomma analizzato tutto ciò e scritto questo spettacolo insieme ai nostri ragazzi. Poi abbiamo deciso di portarlo in scena e il CSV, Centro Servizi Volontariato, ci ha chiesto di fare questa mini tournée nelle APS in modo tale che potessimo arrivare al numero maggiore possibile di persone. Quindi nell'ambito di questo progetto, all'interno del Festival dei Diritti, oggi siamo qui per poter portare il messaggio anche a voi. Basta, detto tutto, anche perché qua bisogna iniziare, e quindi niente, buono spettacolo e... I have got you under my... Ai miei tempi la gente era serena, non aveva paura. Ora non è più tranquilla neppur tra le proprie mura. Ciao Mario! Ciao! Questo è sempre insieme la scarsa, non vedi mai! Dai, ti è toccato sempre insieme! Che, te, due, ti conosce Luisina il bagnocchio, no? Se capisci in un bagnocchio è un motivo che se vanno, eh! Da te lì davanti alla clinica si sta di paese, aspetta che aveva paura di te, ti hanno telefonato nel ramo. E se giù in macchina, passa davanti un filotto che aveva qui in sala, e si è sbassata su un anello, e dice, signore, lei ha perso un anello. Lui dice, no, guardi, io non ho perso nessun anello, sono qui seduto in macchina, non è... No, no, guardi, ho visto io che lei... No, se ti dico che non sono sceso dalla macchina, non posso aver perso un anello. Beh, senta signore, allora se io glielo do, lei mi dia qualche cosa, se io ho fame o vorrei mangiare qualche cosa. E guarda, io, ma sei per te, l'ha fatta, ho tirato fuori il portafoglio, poi comunque, cosa stufio, quella, perché il portafoglio è via, quella è andata. Dunque, te l'ho detto una volta, sta a te, no? Dopo quei dì, passa il policlinico, aspetta il figlio che mi ha fatto lì, che è andato a fare un corso lì all'ospedale. E veramente lui, un signore, e vestì a porto, signore, scusi, io sono un autista che sono rimasto a piedi con il camion lì fuori per via. Non ho neanche un soldo, se mi dà qualche cosa posso comprare un po' di benzina. Dunque, se lui è un po' fuori, e pensava che il camion vanno con la benzina, io con il gasolio. No? Ma lui non è sette, una sola, lui ti mette un diritto, non se ti dice chi è l'altro. E questi va a fare anche lui che ha dato la testa in Teseo, a sto uomo. E fa, ma guarda, io non Teseo, ma non bastano. E lui ha ammazzato il Teseo, tanto che porta fuori, vuoi dire, ma se no, ma guarda. Senta, la morale è una sola. Che in giro un sacco di delinquenti, vabbè, questo lo assumo tutti. Però Occhio, se abbiamo un po' io, bene, ti sentivo. Uno dei due si è avvicinato e ci ha portato per terra i piedi. Le 4 o 5 monetine da centesimi. Eh sì, eh. Era da poco. Poi ci fa, signora, ma ha aperto i giochi. Ma come? Non me ne sono accorto. Mi dico, come fa? Ti aiuto io. Mettono lì tutti e due a raccogliere i monetini. Il secondo truffatore arriva, si mette le mani nella borsa, si porta lì la pensione della borsa. Le solite cose, noi ci caschiamo sempre. Siamo deboli noi, se la prendono con noi, è ovvio che sia così. Io vorrei poter fare qualcosa. Potrei. Che cosa? Non lo so. Cosa possiamo fare noi? Niente. Niente possiamo fare, perché non possiamo fare gli eroi, ci pestano. Senti, io adesso vado a fare la spesa, sì. Che tu mi lasci sempre andare da sola, mi fai portare le borse, vieni con me così ti distrai e non leggi più quelle porcate che ci sono scritte lì. Va bene, ci conto? Vai, vai, perfetto, vai. Facciamo le nostre tutte intarsiate con i loro iniziali. Abbiamo subito un brutto ospedale. Sono andata per fare un intervento, il giorno delle dimissioni, ho raccolto tutto perché l'orologio e l'anello che non è come aiuto. E oltretutto quello che veramente ci teniamo di più è stata la leva del mio marito. Non avevo più, è stato veramente un dispiacere. Un paio di orecchini che mia sorella ha fatto qualche anno fa, magari da uomo del mio babbo, anche lui è seduto, e un braccio letto della mia mamma è seduto con me. Io ho subito un furto, bravo di valore, e affettivo anche. Per strada. Ma poi alla fine? Quando vedo la divisa, il tesserino, la pettorina, l'aria sicura. Che se poi non apro? Mi tolgono il gas. Mi danno la multa. Che se poi non apro? Mi tolgono. Allora sa che apro. Dai. Poi è così. Gentile. Thank you. Ma che succede? Guarda lì, quando pensi quel che mi è capitato, parla che deve essere una persona normale. Dici, ma non è possibile che c'è una roba insieme? Ma ti dico che c'è tanta roba storta. A parte, avessi un occhio, va bene? Ma va, ma di no, che si mi dà, dai. Senti, mi desta, che la fa più molto ai borsi, insomma. Vabbè, no, metà. Con la metà. E allora ti smari, me ne vado la mesa. Nonna, tu vieni a piedi al supermercato, io ti aspetto con la macchina, così poi ti porto a casa le spese. Una bella roba, se vuoi che te ne vuole. Sì, ve lo dico che si vanno a passare su 30 e che maniera. So quasi, vedevi me ne avuto l'altra al supermercato. A sfermo una macchina all'improvviso. Signora, mi scusi, dico, guardi, io sono dell'acquedotto. E cosa posso fare io? No, vedi, io cerco le case dell'Aller. Ma era per te? Appunto, ma lui lo sapeva. Ah. Ecco, sì, io abito nelle case dell'Aller. Ecco, lei dovrebbe farmi una cortesia, se posso. E toglietemi sempre il menevudo che era. Un bel minuto viene giù la macchina e vedi che il gamman di Fai, così, era in testazione dell'Aller. Ah. Porca miseria, così, ma minchia me curt, che da voi una perdita d'acqua. Se vi non si fa, Sergio. E allora, godite, sì. No, signora, guardi, e lì, ma fa vedere sti cacco di no. Lei tu, vedi in macchina con me, mi porta a casa sua, così io guardo i rubinetti come funzionano. Ma scusa una roba, se la perdita lei nel portiere e devo guardare i rubinetti. Certo, Sergio. Una truffa con la lei, dai, bella buona. Ma li urdi? Lei si è venuto contro gli scrivi giù la macchina. Allora lei mi viene incontro e io, nonna, nonna! Mi ha svegliato un sogno. Te, ma ti ha salvato. Se vivi il nome di Vudo, sono nato che mi fa. Ma ti ha salvato, Leone, guarda. Meno male, è andata bene. È Roma che è scoperta da Vudo. No, sono io in anticipo di mezz'ora. Ah. Abbiamo detto che davanti sul mercato. Appunto. Io sono arrivata mezz'ora prima. Sono andata a fare un po' di spesa. Guarda, ho vergogna di dirtelo cosa è successo. Ma perché? Dai, cosa c'è? Ti vedo così agitata, scusa, Ma allora, faccio la mia spesa, porto la roba sulla macchina, carico le borse, poi avevo la borsa tra corna. Stupidamente l'ho preso e l'ho messo sul sedile della macchina. Prendo il carrello e me lo porto attorno. Torno indietro, la borsa non c'è più. Mi dispiace, guarda, mi dispiace tanto perché di solito noi donne nella borsa abbiamo di tutto. Tutto, tutto. Tutto. Pensa che il cellulare ce l'ho sempre in tasca perché sono un po' sorda. Adesso non ce l'ho in tasca, ce l'ho messo nella borsa. Ah, va bene. Tu senti, tutto. Ascoltami. Ma devi fare la denuncia? Vuoi ma fare forza, la denuncia? E il banco marcio dentro. Beh, guarda, io adesso col cellulare chiamiamo la banca, poi invece di andare a fare shopping, andiamo a un pomeriggio in questura, dai. Non te la prendere. Ma ti pensi che quando vado là dai carabinieri che le dico queste cose? Ma per loro è normale. Per loro è normale. Più è a dirlo in casa, che quando lo dici ai tuoi figli ti dicono ma mamma, ma quelle cose lì non si fanno. Ma insomma, lo sappiamo anche noi che non si fanno. Ma io sempre la però ormai è successo. Cosa ci vuoi fare? Allora. Dai, andiamo in questura, dai. Per cui direi almeno più buona del fine ha preparato la mia dimora. Certamente il mio figlio e tutti coloro a cui hanno. Buongiorno! No! Buongiorno! Cos'è successo? Anche a te? No, ma bello, è andata abbastanza bene. Ah! Brevemente arriva il succo. Verso le 8:10 sto facendo colazione senza spillare il telefono E dico, ma che questo è ormai alla mia età, non è più aspettare, a parte questo. E beh, ci sono un ispettore della polizia, ma cosa fa? Oh, sì, non ha fatto niente. Si sente al telefono da parte di suo nipote, il quale ha avuto un incidente ed è qui a pronto soccorso. Era un incidente di quello per i furbi, quello? Ma non lo so, comunque parlava, io, ma scusi, si è fatto male, insomma, da lì per lì. Sono rimasto un po' interdetto, sì. Ma non lo sono, però sono rimasto un po' interdetto. E l'ho fatto parlare ancora un po', e poi alla fine dico, dentro di me, io sì, c'ho un nipote, però non un maschio. Non... Ah, e perché voleva che riportassi 200 euro perché doveva pagare... Ma tu non gliel'hai detto, ma cosa mi ha preso? No, non ho detto niente, ci ho pensato un po', ho detto, sì, non vuole 200 euro, io non riporto niente perché... C'è un nipote, ma è una nipote, allora lo prima, guardi che ha sbagliato persona, anche io, nipote ce l'ho, ma è femmina. E perciò, meno male che non sei caduto, perché bisogna stare attenti. I nostri valori, ma è la dignità che ci portano via. Hai proprio ragione. È il senso di vergogna che ci prende come un colpo qui al cuore. Ma perché? Per non aver saputo capire che era tutta una messa insieme per portarci via tutti. Sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo trovare un sistema per difendersi da queste persone. Ma se dobbiamo, possiamo difenderci. Dobbiamo trovare un sistema. Adesso ecco cosa facciamo. Sì, adesso ce ne andiamo al centro. Un altro centro. Parliamo con i nostri amici e vediamo di trovare qualcosa, eh? D'accordo? Va bene. Ciao. Ciao. Andiamo, ciao, andiamo. Siamo stanchi di foraggiare la malavita e con rabbia, uniti, spezziamo le catene, usciamo dalla gabbia. Sto cercando dei nostri amici che sono stati truffati, ha cercato di truffarmi, ha trovato il sistema per difendersi. Ecco, io vorrei parlare con loro per poter capire come hanno fatto, per poter combinare una strategia per riuscire a combatterli, a sconfiggerli. Cosa stai facendo? Mi sembra un oratore. Con chi stai parlando? No. Parlavo, pensavo ad alta voce. Pensavi ad alta voce? Il mio sistema. Capito? Senti, ma hai portato? Certo che te l'ho portato, c'è anche nella notizia. Sì, sì. Meno male. Almeno una. Ti farà piacere, guarda, leggerla. Sì. Leggila a te, perché io con questi occhiali non vedo più. da te, intanto io ascolto, Ma questo. Oh, che notizia bella! Io ho letto in testa. Ma senti, Pavia, la vecchietta prende a ombre il latte i rapinatori. Ma che bello, guarda. Due giovani a Pavia sono entrati con il volto coperto in una tabaccheria per impossessarsi dei soldi in casa. Circa 1.000 euro. Vabbè, insomma, la cifra abbastanza buona. Durante il colpo hanno bloccato la porta di ingresso, ma all'uscita hanno trovato un'anziana signora che li ha colpiti ripetutamente con un occhio. Che bellezza, guarda, è una meraviglia di tempo. I raccontatori sono stati arrestati dalla polizia. Ma fare l'eroe è un po' pauroso, però guarda. Ma questo sì che è bello. Ma io ero assolutamente corrotto. Ma possiamo farlo, lo facciamo venire al nostro centro e così la conosciamo. È un piacere. È un piacere. Vediamo che sempre non ci siamo. Aveva voglia di uscire perché aveva fatto, doveva fare i suoi amici, insomma, certo, no? Certo. Allora sono uscita anch'io. Ma tu ben tanto che sono fuori, vado a prendermi le sigarette. Gente. Che quel brutto vizio ce l'ha. Ma è l'unico vizio che mi è rimasto. È diventato una mezzo diva. Dai. E adesso vado a prendermi le sigarette. Perché? Perché alla sera mi fumo una sigaretta per bere un grappolo. E come hai fatto a avere il coraggio? Passo la serata così io col mio CP. Allora passo, scusa, vado e faccio per entrare in tabaccheria e c'è la porta chiusa. Ma porca miseria, c'è, non l'hai chiusa questa ragazza. Allora io mi malapurgo così, un bel stangolo. Dov'era? Allora ho guardato un po' così dalla vetrina, ho visto la ragazza che aveva i mani in ticari e due delinquenti che stavano ruotando il cassetto. Ho detto, ma guarda, guarda, ma lui rischia di fare franca chi di lì, gli assistemano mia adesso lui. Non so, mi sono nascosto da dove mi si, lui, può dire rampare qualcosa, appena aprono la porta per uscire io ho incominciato patatini, patatoni, patatini. Hanno dai quattro callà, le burla là, me ne perdi in giuria. Brava! No, un momentino, ti dico la verità, non l'ho finita. No. Perché l'altro se ne è accorto che quelli lì c'è fatto. E pure io gli farò, no, e gli dici, beh, fare da lì c'è la torsione. E lui diceva, allora ci schemi stessa, mi sto che finché mi affero, ma poi ho fatto no, perché la gente ha cominciato a radunarsi e a chiedere, sono arrivate la forza pure, li hanno arrestati tutti e due, però io ho finito la mia vita privata, io tutti i giorni devo andare da qualcuno, sono invitata dal sindaco, sì, ma veramente continuano a farmi firmare delle cose. Guarda che lì su Mappavia, non c'è Hollywood. A me non me ne frega niente, a me me ne frega che io ho sventato una rapina. Se mi ha seguito la Stranger MCP, che da una fegna l'influenza. E poi sono andata dal sindaco, qui siamo in borgo, no? Sì. A Pavia. Sì. E perciò il sindaco è sempre lo stesso. È naturale. No, perché io abito a San Genesio, mi ho nato. Per farla breve facciamo così. Mi ha mandato a chiamare il sindaco e mi ha detto, signora, mi dica quello che vuole. Io non voglio niente, sono contenta di quello che ho fatto. Lo rifarei 10 volte ancora, basta che mi lasci in mano con un braio più. Ha avuto coraggio. Però adesso noi dobbiamo darci da fare. Noi anziani dobbiamo cercare di organizzarci, far passare voce in provincia, nella regione, da parte unita, perché l'unione fa la forza. Facciamo passo la voce. Io mi raccomando, perché io dove vado a tutti dico questa cosa. Arrivederci. Arriva da come si in treno. Guarda. Basta. Certo, un abbraccio. beneficio internazionale che parlo. Sì, qui parlano di beneficio azzurro. Io sono qui al centro del Borgo Ticino di Pavia. Sono stato... mi hanno fatto presidente e mi hanno dato l'incarico di comprare 2000 ombrelli da lei. 2000 ombrelli? Ma cosa ne fate? Piove tutto l'anno lì da voi. Dobbiamo fare un progetto per difendersi dai truffatori. Ah, sì, sì, ma l'ho letto quel fatto lì dell'ombrello. Certo. Sì, sono sì. Io a ricevere. Senti, allora, sempre quello, io gli ombrelli mi regalo, guardi. 2000, 3000, quelli che vuole. 2000, 2000. 2000 basta. Questo è solo l'inizio, però. Sì. Perché è un esempio questo, perché noi dobbiamo stare tutti uniti. Senz'altro. Perché? Stando tutti uniti, siamo più forti di loro. Senz'altro. E l'ombrello è il nostro simbolo. Va bene, senta, a questo proposito, io li riporto personalmente gli ombrelli, così non spendere anche i soldi del viaggio. Va bene. Va bene. L'aspetto lì. Senz'altro. Così poi li distribuiamo. Va bene. Se mi aiuta mi fa un favore. Arrivederci. Arrivederci. Lo scoprirete ora. But any size catches thieves just like black. Look out! There comes a Spider-Man. Is he strong? Signora, buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, guardi, abbiamo una promozione interessantissima per una nuova compagnia telefonica. Possiamo salire a illustrargliela io e il mio collega. Sarà questione di 10 minuti. Io non ho nessuna intenzione di cambiare gestore. Guardi, già fanno diventare matti quelli che telefonano tutti i minuti. Ed è per questo che noi siamo qui. Non abbiamo usato questo metodo. Io la ringrazio tantissimo, ma come dico a quelli che mi telefonano, non voglio cambiare gestore. Ma lei non ha ancora sentito la nostra offerta? No. Non la voglio sentire la sua offerta, grazie. Grazie a lei, arrivederci. Spins a web of any size, catches thieves just like black. Look out, there comes a Spider-Man. Is he strong? signora Zucca? Dica. Signora Zucca, buongiorno. Buongiorno. Stiamo effettuando alcuni controlli per quanto riguarda i premi assicurativi relativi allo scorso anno. Possiamo disturbarla? 10 minuti. Per che cosa? L'assicurazione, signora, l'assicurazione. Purtroppo non abbiamo avuto modo di fare un primo contatto telefonico, quindi ci siamo recati. L'assicurazione di che cosa? L'assicurazione della macchina, signora. Io di macchine non ne ho mai avuto in vita mia. Non ha la macchina? Sì, ce l'ho la macchina. Ah, vabbè. La macchina da cucire. Ah, la macchina da cucire. Ma allora non abbiamo assicurazioni sulla macchina da cucire. Ah, ecco, perché mancarissa che adesso ti pagare l'assicurazione della macchina da cucire. Guardi, ci deve essere stato uno sbaglio, probabilmente non abbiamo aggiornato i nostri file. Ci scusi moltissimo. Non passano più bene. Catches thieves just like black. Look out, there comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Took a look over and hit out. Buongiorno. Degli allacci per quanto riguarda le fibre ottiche. L'ACI per che cosa? Guardi, allora, che cosa palazzo... Cosa queste cose? Allora, sono lieta di comunicarle che nel palazzo da oggi ci sarà la fibra ottica, quindi l'internet funzionerà velocissimo. E che cos'è sta cosa? Allora, non l'ho mai sentita. Allora, rispetto ai vecchi gestori telefonici, avete la possibilità di avere una fibra ottica velocissima, quindi oggi io e il mio collega dobbiamo solo occuparci di vedere come sono gli allacci della sua vecchia linea ed effettuare anche modifiche. Guardi, lei ha sbagliato, io non ho neanche il computer, cosa vuole mandare a mettere la linea, quelle linee lì che dice lei? Io non ho computer, non mi interessano quelle cose. Guardi, la ringrazio però, molto. Ma non è solo per lei, è per tutto il palazzo, dobbiamo farlo ad ogni pianerottolo, se non è lei, chieda al suo vicino. Guardi, la ringrazio molto, ma io non apro a nessuno perché ho paura di qualsiasi persona. Diventa veramente difficile fare questo lavoro al giorno d'oggi. Signora, buongiorno, scusi se la disturbiamo, siamo dell'agenzia privata della sicurezza che si occupa della posta qui del quartiere. Sì, dica. Guardi, purtroppo parlo a bassa voce perché questa mattina si è verificato un caso che ci, diciamo, insomma, siamo veramente desolati, ma purtroppo nella consegna delle pensioni... A far parlare che non è che mi sia troppo familiare? Insomma, le sto mettendo le cose semplici perché poi non è che dobbiamo stare qui a parlare un linguaggio che non capiamo. Ecco, troppo agitata, ecco, per quello che non mi fido troppo. Dica. Allora mi calmo. Nella consegna delle vostre pensioni mensili, purtroppo si sono verificati alcuni problemi e sono state distribuite delle banconote false. A me non interessa. Come non interessa, signora, io la prego, si prenda 10 minuti per controllare se quelle che abbiamo dato a lei sono effettivamente delle banconote reali oppure no. La prego. No, io non sono andata in posta, perché io in posta non ho niente. Quindi... Signora, la pensione l'ha data in posta? No, io non la prendo in posta la pensione. Ah, le viene versata direttamente, viene bonificata direttamente sì, sul conto? Sì, quindi, ah. Vede? Mi scusi, prego. Per l'inconveniente. Prego. Buongiorno, mi scusi, mi spiace disturbarla, ma è veramente un'urgenza, mi sente? No, parli più forte. È veramente un'urgenza, mi sente? Dica. Allora, guardi, purtroppo il nipote ha avuto un incidente, niente di grave, però c'è bisogno di fare degli esami che sono piuttosto costosi e se aspettiamo di avere i tempi della sanità pubblica potrebbe andare veramente per le lunghe. Quindi le sto chiedendo l'autorizzazione per passare da, diciamo, gli esami privati, ecco. No, è lei responsabile. Chi è il nipote? È il nipote suo. Ah, il mio? Certo, il nipote, adesso non mi faccia andare a prendere la pratica, lo sa lei come si chiama, no? No, voglio sapere perché ce ne sono tanti. E beh, il nipote, allora... Qualcheduno posso aiutarlo, qualcheduno no. Il nipote no. Ora io non voglio entrare nelle sue questioni familiari. Certo, lasciamo lì, l'ho già detto prima. Io di nipoti ce n'ho uno, ma è una donna, perciò ha sbagliato un numero e va da quel paese. Signora, buongiorno, mi scusi. Buongiorno, cosa è successo? Guardi, questa ricetta, purtroppo devo prendere dei medicinali molto costosi, signora, mi scusi, dei medicinali molto costosi, li devo comprare ogni settimana, purtroppo, per mia figlia, signora, mi scusi. Ma lei è andata in farmacia, vado in farmacia e se li faccia rilasciare, no, con la ricetta. Ma non sono mica gratis, signora, questi medicinali costano molto, signora, questi medicinali costano molto, no. Io la prego. Guardi, se vuole gliene posso... aspetti giù, mi aspetti giù vicino alla porta e non insista. Eventualmente glielo butto giù con un sacchetto e se ne vada. Grazie, arrivederci. Lo ha saputo? Io no. Guardi, purtroppo è perché è successa la vicina del piano di sotto, signora. Ora, noi abbiamo recuperato al centro qui un po' di questi gioielli, però le chiederei cortesemente di fare un controllo. Se dove tiene i suoi gioielli e le sue cose preziose c'è ancora tutto. Ma io non ho più niente. Come non ha più niente, signora? Non ho tenuto in casa più niente, le ho date tutte a mia figlia. E dove abita sua figlia, signora? Davvero di Roma. Ah, va bene. Allora, va bene, scusi il disturbo, signora. Arrivederci. Bravi! Bravi! Bravi! Bravi! Bravi!